Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Strade e Motori. Questa domenica vi presentiamo uno dei top seller degli scooter italiani, l'ultimo arrivato della famiglia Beverly Piaggio. Poi parleremo di sicurezza stradale con una iniziativa voluta dai giovani e per i giovani. Scopriremo le novità di giugno del mensile motociclismo. Ma partiamo parlando di Scuolabus. Ogni giorno trasportano i nostri beni più preziosi, i nostri figli, verso scuola, poi di nuovo di ritorno verso casa. Sono gli Scuolabus, cioè i mezzi che le aziende di trasporto locali, pubbliche e private, adattano per il trasporto degli studenti, dai più piccoli, quelli dell'asilo, agli studenti superiori. Ma in che condizioni sono? Ha investigato il mensile Quattro Ruote ed è un piacere salutare il direttore Mauro Tedeschini. Ben ritrovato, buona domenica, direttore. Grazie, buona domenica a voi. Cosa ha scoperto Quattro Ruote? Non sono spesso in buone condizioni, la parola adattano, che è usata la parola giusta, perché in moltissimi casi sono appunto dei vecchi bus, magari usati per il trasporto collettivo, che vengono adattati per portare in giro i bambini. E purtroppo la cronaca negli ultimi tempi ci ha dimostrato che non sono all'altezza del compito che devono svolgere, perché non hanno le cinture di sicurezza, spesso non hanno l'ABS, e quindi ci sono tutta una serie di condizioni che fanno sì che i bambini non siano trasportati come dovrebbero. E noi siamo partiti, come avviene spesso, dalla mail che ci ha inviato una mamma del Trevigiano dicendo: ma fate qualcosa, perché noi vediamo qui nel Veneto, che non è appunto una provincia tra le più povere d'Italia, vediamo i bambini trasportati in modo troppo trascurato e sui mezzi che non sono all'altezza. Ecco direttore, l'anno scolastico sta per finire e anche l'occasione, se vogliamo, per fare un po' un check, un controllo, dovrebbe essere l'occasione per fare un controllo delle condizioni di questi mezzi di trasporto. Ma chi deve controllare? Questa è una buona domanda. Intanto cominciamo col dire che si è mosso il Ministero dei Trasporti, perché finalmente ha emanato questa circolare che farà sì che i mezzi di nuova omologazione, quindi i mezzi nuovi, abbiano tutti i requisiti di cui parlavo prima, quindi l'ABS, le cinture di sicurezza, l'equipaggiamento antiribaltamento, insomma tutto quello che può garantire un trasporto più sicuro. Diciamo che per quello che ci riguarda, per essere pratici, perché se andiamo nelle normative sui controlli non ne usciamo più, a mio parere ci vorrebbe il comandante della Polizia Municipale dei vari paesi che in modo autonomo e obiettivo verifichi quelle che sono le condizioni degli Scuolabus che trasportano appunto i ragazzini al lavoro, perché evidentemente molto spesso, visti anche i tagli alla finanza locale, accade che vengono messi in piedi degli Scuolabus che sono rabberciati con magari delle vecchie corriere comprate usate chissà dove, e si risparmia dove invece a nostro parere non si dovrebbe assolutamente risparmiare. Quindi ci vorrebbe, diciamo, un incaricato terzo che tutti gli anni faccia una sorta di ispezione all'inizio dell'anno scolastico, A, sullo Scuolabus, B, anche su chi lo deve guidare, in modo che non si mettano in mano appunto questi importantissimi mezzi a delle persone che non sono apte a farlo per i motivi più disparati. Certo, anche perché, per concludere direttore, è un bel business quello del trasporto degli studenti, dei ragazzi, insomma immagino che sia particolarmente ambito soprattutto in ambito locale, no? Sì, questo non c'è dubbio. E poi c'è un altro fatto, che psicologicamente i genitori pensano, quando affidano il bambino alla scuola bus, che sostanzialmente il bambino sia già a scuola, no? E quindi pensano che ci sia la sicurezza che di solito noi pensiamo ci dia un ambiente scolastico. Ecco, andando a vedere, noi siamo andati un pochettino a spasso per l'Italia dopo questa mail, effettivamente non è così. Qui non si vuole creare nessun inutile allarmismo, si dice solo, siccome poi in Italia dopo sui quotidiani parliamo di disastro annunciato, noi annunciamo il problema in modo che il disastro non ci sia, perché sarebbe veramente grave, sarebbe una cosa che credo nessun genitore potrebbe accettare, di avere delle conseguenze gravi da un trasporto con uno Scuolabus. Direttore, ma proprio una battuta per concludere, ma avete trovato anche qualche caso positivo, qualche situazione invece ottimale dove i controlli ci sono e gli Scuolabus sono in ottime condizioni, potete segnalarlo? Ci sono sono soprattutto dei casi molto buoni, devo dire, fortunatamente nella mia Emilia Romagna, dove abbiamo trovato appunto delle scuolabus di primissima generazione equipaggiati come si deve, e quindi in realtà diciamo che la situazione non è una situazione così grave, però basta solo uno scuolabus fuori norma per creare dei problemi. Certo. E quindi, siccome questo è il momento per farlo, attrezziamoci in modo che quando l'anno scolastico riparte i primi di settembre sia tutto in regola e non dobbiamo aspettarci delle sorprese là dove non ci devono essere, perché questo è il momento di agire, come ha ricordato giustamente il direttore di Quattro Ruote Mauro Tedeschini, che ringraziamo. Appuntamento domenica prossima, direttore. Grazie, buona domenica a voi. Più di 270.000 pezzi venduti in quasi 10 anni di vita per il Beverly Piaggio, uno degli scooter di maggior successo non solo in Italia, il prodotto di punta della casa di Pontedera, che sarà in vendita tra pochi giorni in Italia e da luglio in Europa nella versione 300, una versione rinnovata di cui parliamo con il direttore commerciale EMEA Piaggio, Stefano Sterpone. Buona domenica, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a tutti. Rinnovamento nella continuità, uno slogan di qualche anno fa che attiene ad altri mondi, ma che possiamo utilizzare anche per questo nuovo Liberty che vedremo tra poco nei concessionari. Ma sì, potrei anche dire, iniziando, che non avevamo quasi necessità di farlo, perché è un veicolo che sta andando e funzionando ancora molto bene nella cosiddetta gamma corrente. Sì. Il nuovo non era quasi necessario, ma amiamo accontentare i clienti anche prima che i clienti ci chiedano di essere accontentati con qualche cosa di nuovo. Quindi abbiamo creato questo nuovo Beverly e, come ha detto lei, lo stiamo lanciando tra giugno e luglio in tutta Europa. Quali sono le novità di questo nuovo Beverly 300 che vedremo, appunto, dicevamo, dall'inizio di giugno, a metà giugno, in concessionario? Sostanzialmente il Beverly conferma quelle che erano le caratteristiche, il nuovo Beverly, sì, conferma le caratteristiche che erano quelle del Beverly attuale, mi piace dire, perché non è vecchio, non riesce a essere vecchio. Pensi che l'attuale prodotto ha un 7% di mercato su questo tipo di mercato di segmento a ruota alta, quindi è un veicolo di successo ancora oggi. Dico, il nuovo conferma quelle che erano le caratteristiche del cosiddetto attuale, il comfort, con delle cose migliorate in termini proprio di tranquillità, di posizione di guida di chi conduce un veicolo come questo, ovviamente di sicurezza e ovviamente anche in termini di prestazione. Sostanzialmente abbiamo cercato di fare un around the vehicles completo per cercare di arrivare a incrementare quelli che erano già i punti di successo di questo veicolo, quindi stile, quindi capacità di frenata migliorata, quindi ottimizzazione nelle prestazioni, un meno 20% nei consumi, meno 20% nelle necessità di assistenza e di manutenzione. Attenzione, sicuramente anche quella che, non so, la possibilità di inserire due caschi sotto sella, che tutti la vantano ma nessuno poi effettivamente l'ha, e questo veicolo effettivamente può avere inserito sotto sella due caschi veri, non due caschi finti. Quindi diciamo che il nostro cliente, che rimane probabilmente un cliente Beverly e che acquisterà il nuovo Beverly, verrà accontentato in cose che già aveva prima. Leggevo anche, e questa è una cosa che interessa particolarmente il vostro cliente cittadino, che le sospensioni sono particolarmente efficaci nell'assorbire le tante buche che ci sono nelle nostre città. Avete lavorato anche su questo? Sì, abbiamo assolutamente fatto di tutto, perché questo deve essere un veicolo che, come si sa, viene prevalentemente usato in città. Quindi il nostro cliente, che è un 30 anni in su, che vive il veicolo come un vestito, che va a lavorare, ogni tanto va anche fuori porta, come si dice, ha necessità di essere trattato bene in termini di comfort. Quindi abbiamo assolutamente lavorato anche sugli ammortizzatori, abbiamo fatto di tutto perché potesse essere effettivamente un veicolo vissuto ancora meglio. Sicuramente anche gli ammortizzatori, come dicevo prima, il nuovo impianto frenante, che risulta ovviamente rinnovato, più potente. Abbiamo assolutamente cercato di rendere il veicolo più bello, ma anche più sicuro. Il Beverly vuole piacere anche agli automobilisti, a quelli che passano magari per la prima volta provare a battere il traffico cittadino dalle 4 alle 2 ruote? Ma io direi di sì. Anche perché il cliente Beverly è il classico cliente che ha anche una macchina, perché è un ragazzo, un uomo dai 30 anni in su, magari anche una signora, una ragazza, prevalentemente però è un oggetto, dalle analisi che abbiamo fatto, maschile. Di solito ha anche una vettura, ma ama dribblare il traffico, ovviamente in senso positivo, con ottimizzazione del percorso, del tempo di percorso, del parcheggio. Quindi è sicuramente uno strumento per rendere la vita, per vivere la vita cittadina in maniera oggettivamente più fluente. Questo porterà un po' di concorrenza con le auto, perché i nostri clienti Beverly genericamente hanno anche l'auto, ma preferiscono il Beverly perché è uno strumento decisamente più veloce in termini di traffico cittadino e anche di parcheggio. È sicuramente uno degli aspetti che vantiamo in termini di Beverly, perché è proprio come un vestito, con il vestito addosso ci si esce sia che si vada in macchina che si vada in moto. Questa è la caratteristica del Beverly, si vive tutti i giorni insomma. Vogliamo ricordare anche il prezzo in concessionario? 4.290 per la versione che lei ha citato a 300, poi abbiamo un 4.100 euro per la versione che lavora su 125 cc con un motore integralmente rinnovato. Vogliamo ricordare, dottor Sterpone, per concludere, se e quando ci saranno altre novità che riguardano gli altri prodotti Piaggio, Vespa, MP3 e quant'altro? Noi siamo in una continua evoluzione della nostra gamma prodotti, questo è il lancio tra virgolette più importante dell'anno per quanto riguarda ovviamente il mondo degli scooter, poi abbiamo ovviamente qualche edizione speciale nell'ambito della nostra gamma che è ovviamente estesissima. Se vogliamo però concentrarci, se lei mi dovesse chiedere qual è il modello nuovo di punta per quest'anno su Piaggio, le dico tutti. Qual è il modello più nuovo di tutti? È sicuramente il nuovo Beverly. E quindi da tra qualche giorno in concessionaria il nuovo Beverly Piaggio 300 che abbiamo presentato insieme al direttore commerciale EMEA Piaggio Stefano Sterpone. Grazie e buona domenica, presto. Buona domenica. Strade e motori. Strade e motori. Bentornati, seconda parte di Strade e Motori. La sfida Yamaha BMW, la moto dell'anno 2010, sono tra i temi forti di motociclismo di giugno in edicola, ma questa seconda sezione di Strade e Motori la apriamo parlando di sicurezza stradale. Ha un titolo molto efficace e fortemente evocativo. Basta un attimo, e parlando di sicurezza stradale non c'è bisogno di aggiungere molto altro per capire qual è il significato di questo slogan. Un'iniziativa firmata dai giovani e per i giovani che va avanti da un po' di tempo e che merita di essere sostenuta. Ne parliamo con il portavoce di Basta un attimo, Carmelo Lentino, che è in collegamento con noi. Buona domenica, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a tutti voi, grazie per averci invitato. Come è nata questa iniziativa, Lentino? Beh, l'ha detto prima lei, è una campagna dei giovani italiani, promossa da due organizzazioni, uno è il Forum Nazionale dei Giovani e l'altra è Assogiovani, proprio con l'intenzione di riportare al centro dell'attenzione uno dei temi maggiormente cruciali per le giovani generazioni. In Italia muoiono ogni giorno 13 persone sulle strade, molte di questi sono giovani e quasi la totalità invece di quelle che muoiono durante il weekend sono under 35. Quali sono le soluzioni pratiche che la campagna Basta un attimo propone per cercare, non dico di risolvere perché probabilmente la strada è ancora lunga da questo punto di vista, ma per provare a migliorare questi dati, questi numeri che ha ricordato? Ma guardi, noi non crediamo di avere la bacchetta magica e quindi di poter risolvere noi il problema dell'incidentalità stradale, magari lo potesse fare una campagna di sensibilizzazione sociale. Noi ci occupiamo di appunto sensibilizzare sul tema, quindi promuoviamo una serie di iniziative che vanno dai concorsi fotografici, video, musicali, rivolte alle scuole proprio per far parlare i giovani del problema della sicurezza stradale in un modo diverso. Andiamo avanti con le iniziative nelle piazze, nelle discoteche e quant'altro, promuoviamo azioni di sensibilizzazione anche nei confronti delle istituzioni, intervenendo quando ce ne viene data l'occasione anche su proposte legislative e quant'altro. L'ultima iniziativa che è proprio di queste settimane, che sta dando un buon risultato, è ad esempio SMS, strade maggiormente sicure. Abbiamo attivato un numero di cellulare che è, lo ricordo, 346 15 24 944 e abbiamo chiesto ai cittadini di segnalarci quei tratti di strada che sono mal tenuti, che sono dissestati, dove i semafori non funzionano, dove la segnaletica praticamente è obsoleta, dove non c'è più illuminazione, proprio per fungere da banca dati e ribaltare il problema, sottoporlo quotidianamente alle amministrazioni coinvolte, sia esso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, le società concessionarie delle strade oppure comuni, province e regioni. Lentino, lei che ha il polso della situazione, che ha un contatto, immaginiamo, giornaliero con i giovani, con i ragazzi che si pongono alla guida non soltanto il sabato sera, ma insomma soprattutto nei momenti di svago e di libertà, c'è consapevolezza da parte loro della gravità del problema, o invece tutto ciò che riguarda la guida sicura, la necessità di non bere, di non mettersi al volante se magari si è ceduto in alcol, eccetera, viene affrontato ancora con superficialità, che poi spesso è la porta d'ingresso dell'incidente stradale? Ma guardi, la consapevolezza, è indubbio dirlo, negli ultimi anni sta aumentando, forse perché l'attenzione anche a livello europeo su questa tematica si è intensificato. C'è però la percezione che per la gran parte dei giovani il problema non è un problema che li riguarda direttamente, è come se la cosa succedesse soltanto agli altri, no? E quindi finché uno non viene, tra virgolette, colpito direttamente dalla problematica, o perché è coinvolto lui, o perché un familiare, un amico, eccetera, è vittima di un incidente stradale o causa di un incidente stradale, la cosa, insomma, va un po' in secondo piano. Per questo, almeno per quello che attiene l'attività della campagna, noi puntiamo molto sul cambiare la cultura nel nostro paese, iniziando a parlare di sicurezza stradale già dai primi anni dell'istruzione obbligatoria, in sostanza. È un messaggio che arriva ai giovani da loro coetanei, secondo voi è più efficace? Ma senza ombra di dubbio, riteniamo che non solo il messaggio portato avanti dalla nostra campagna, ma da molte altre campagne di carattere non prettamente istituzionale, cioè dove non ci sia soltanto l'immagine della repressione, ma ci sia anche un'immagine propositiva di condivisione, di costruzione di un percorso che vada per risolvere il problema dell'incidentalità stradale, probabilmente può avere un effetto differente. Per concludere, Lentino, vi piacciono queste misure che sono state inserite all'interno delle modifiche del codice della strada, ad esempio il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due nei locali, oppure secondo lei si va sulla strada sbagliata? No, ci piacciono a metà. Diciamo che il testo che era uscito in prima lettura dalla Camera, rivisto inizialmente dalla Commissione al Senato, era sicuramente molto più completo di quello che poi è stato approvato dall'Aula del Senato. E, il divieto d'alcolici, tanti altri divieti ci possono stare o non stare, il problema è che l'investimento reale sulla formazione non c'è e non si aumenta la dotazione, ad esempio, delle forze di polizia per aumentare la percezione del controllo, cioè mettere e installare solo tutor o semafori a tempo o macchinette fotografiche di vario genere sul territorio aumenta le casse delle amministrazioni perché fa introitare sanzioni amministrative, ma diminuisce l'effetto perché diminuisce la percezione del controllo. A nostro modo di vedere, a mio modo di vedere, fa più una pattuglia sulla strada che 10 telecamere o 10 tutor su un tratto, insomma, autostradale. Certo. Grazie a Carmelo Lentino, portavoce della campagna Basta un attimo. Buona domenica, buon lavoro, in bocca al lupo per la vostra interessantissima iniziativa. Presto. Grazie. È in edicola il numero di giugno di Motociclismo, la rivista, il mensile per tutti gli appassionati delle due ruote, e noi come ogni mese presentiamo il numero in edicola grazie al direttore di Motociclismo Marco Riccardi, che è in collegamento con noi. Buona domenica, direttore. Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla copertina, che questo mese è davvero affascinante perché ci presenta una sfida ad altissimo livello che non può che, come dire, coinvolgere tutti gli appassionati di motori e di due ruote in particolare, perché si parla di due moto, di due marchi storici e fondamentali anche per il mercato italiano, direttore. Si parla per noi di quella che è la sfida dell'anno tra la Yamaha Super Tenere, la nuovissima Enduro di 1200 cilindrata, e la regina della categoria, che è la BMW R1200 GS. È proprio un tentativo di scartarla dal podio. Ecco, direttore, in redazione, quando avete fatto questa sfida, com'è andata? Chi ha vinto? Possiamo dire da quale parte batte il cuore di motociclismo, se da parte BMW o per la Tenere? Diciamo che la BMW è sempre una grandissima moto, specialmente la GS, che quest'anno compie 30 anni, per cui ha avuto un'evoluzione continua, si è continuamente migliorata. La Yamaha Super Tenere, che ha 20 anni di vita anche lei, ritorna dopo un po' di tempo che non c'era più negli listini prezzi, e lo fa in maniera molto forte, nel senso che è una moto assolutamente a livello del BMW, questo è di sicuro. Sono due maniere un po' diverse di andare, perché la BMW è più sportiva, la Yamaha è più turistica, diciamo così, e il motore boxer della BMW è un po' più grintoso e quello della Yamaha lo è un po' meno, però sul livello delle prestazioni sono abbastanza uguali. Quello è difficile davvero in questo caso dire qual è la migliore delle due. Sono due comportamenti abbastanza uguali, con due motori molto diversi dalla maniera di erogare la potenza e la soddisfazione dell'uso della guida. Però la Yamaha è un po' più da turismo, la BMW, diciamo così, un po' più cattiva, tra virgolette. Ai lettori e agli appassionati, allora, l'ardua sentenza. Direttore, peraltro sul numero di motociclismo in edicola ci sono tantissime prove che coprono un po' tutto il mercato. Vuoi ricordarcene alcune? Sì, partiamo anche qua, ritorniamo un attimo sul turismo con una prova tra la Honda CBF 1000 e la Suzuki GSX 1250, che sono due moto molto semplici dal punto di vista, due quattro cilindri semplici dal punto di vista anche delle dotazioni, però sono interessanti per il rapporto qualità-prezzo e per quello che possono fare, cioè si può spendere mediamente 10.000 euro o anche qualcosa di meno per avere una moto molto comoda per fare il turismo. Poi abbiamo il test della Honda VFR 1200F con la frizione automatica, quella che sono la doppia frizione che potrebbe essere considerato un vero cambio automatico. Poi abbiamo una novità della KTM 350 SXF, che è la moto da cross professionale, che viene a metà strada tra la 250 e la 450, ma apre veramente un nuovo filone per le moto da cross. Quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Sì. Direttore, i lettori di motociclismo hanno anche scelto la moto dell'anno per il 2010. Alla fine chi ha vinto? Una supersportiva italiana, che è l'Aprilia RSV4R. Per pochissimo ha vinto, perché davanti a noi, facciamo così, la moto che vince la moto dell'anno è quella che è più votata nella categoria più votata. Quest'anno è stata la categoria delle sportive, a pochissimo distacco dalla categoria delle nude, delle naked, e subito dopo la categoria delle enduro di grossa cilindrata, come sono la Yamaha e come la BMW. Ma veramente per 36 voti ha vinto. In volata, è il caso di dirlo. Grazie a Marco Riccardi, direttore di motociclismo. Buon lavoro, direttore, buona domenica, a presto. Grazie, grazie. Strade e motori di questa settimana termina qui, noi torniamo tra 7 giorni per aggiornarvi ancora su tutte le novità che riguardano il mondo della mobilità. Grazie a Peter Bescapè per averci guidato in regia, grazie a voi per aver scelto di viaggiare ancora con Radio 24. Adesso le notizie del giornale radio delle 17 da Massimo Di Scienza, l'augurio di una buona settimana a tutti.